come un'ombra il sogno ci seguì sino allo spuntare del sole. Poi capire da quando siamo al mondo quello che cerchiamo noi. Io non so per quanto tempo ancora, io sogno pure resto in volo. Il mio tempo non si è fermato mai, nella mente viene fa. Tante volte furono con noi i sogni delle notti e poi spuntò il sole e l'alba li rapì, domani ritrovarli ancora. Quando un giorno si parlerà di noi e cosa abbiamo fatto qui, lottato, arresi, ho combinato guai, ho sempre fermi a dire sì. Un giorno per nascere, un altro per morire, e non è finita qui. Leggere negli anni e respirando forte, non perdere di vista mai. Tutte le volte avute per sognare e i momenti fatti per cambiare. Verrà il giorno e li ritrovi ancora e sarai ancora qui. Sin da quando siamo venuti al mondo per viaggiare il tempo qui. Se capito qualcosa di profondo, soffrire, amare in libertà. Forse un giorno in pagine di storia un rigo dedicato a noi narrerà di come siamo stati, se abbiamo amato oppure no. Nel futuro rivolto verso noi per capire come fare, senza tempo a restare qua, decise a non morire mai.